Letture di Radio 24. Ha diviso l'opinione pubblica la sentenza emessa dal giudice Simone Luerti, che ha condannato a 3 anni e 4 mesi Gabardi El Habib, il pirata della strada che lo scorso 10 luglio travolse e uccise una ragazza di 16 anni e poi fuggì, presentandosi ai carabinieri solo dopo una settimana, quando ormai le forze dell'ordine gli stavano addosso e aveva le ore contate. Il problema è che nel nostro paese siamo ormai incapaci di punire, scrive lo psichiatra Paolo Crepè sul Quotidiano Nazionale, e siamo oramai immersi in una sorta di innamoramento per ogni forma di condono educativo. Che vi sia un difetto nel coraggio di anteporre il diritto della protezione delle vittime a quello di chi ha compiuto un reato, la cronaca giudiziaria quotidiana lo dimostra ampiamente. Nella nostra cultura sta progressivamente frantumandosi l'idea dell'ineluttabilità della punizione. Non siamo più capaci di farlo. Non lo sono più i genitori, troppo inclini al perdonismo nei confronti dei loro figli. Non lo sono più gli insegnanti, che hanno adottato il 6-meno-meno come espressione più coerente al loro carente senso di autorevolezza. Non lo sono più molti avvocati e giudici, pronti a utilizzare ogni maglia della giurisprudenza pur di non comminare pene esemplari a chi si macchia di delitti terribili, come ad esempio l'omicidio stradale. Emblematica, infatti, a questo riguardo è la polemica che si agita infruttuosamente da anni, senza trovare alcuna soluzione condivisa, sugli incidenti stradali gravi e gravissimi compiuti da persone trovate con livelli alcolici o di droghe superiori ai limiti imposti dalla legge. In questi casi, i parenti delle vittime vedono i colpevoli condannati a pochi anni di carcerazione, riducibili a pene ancor più ridicole se si utilizza il famigerato rito abbreviato. Perché non si riesce a rubricare questi delitti a qualcosa di più di un semplice omicidio colposo? La ragione non riguarda soltanto la cultura giuridica del nostro paese, ma quella più generale in cui siamo immersi, contraddistinta da una sorta di innamoramento per ogni forma di condono educativo. Naturalmente non poteva mancare il contributo della psichiatria, troppo spesso disposta a scandagliare disturbi più o meno devianti per giustificare la ragione di un gesto. Basterebbe pensare all'uso della formula volutamente ambigua del disturbo borderline, giustizia e psichiatria unite nell'abbraccio mortale del giustificazionismo formale. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Paolo Crepè, Siamo incapaci di punire, dal Quotidiano Nazionale dell'11 marzo. Letture di Radio 24. L'imitazione della neoministro Maria Elena Boschi fatta da Virginia Raffaele a Ballarò è piaciuta alla diretta interessata, ma non alla presidente della Camera, Laura Boldrini, che non ha perso l'occasione per tirare in ballo ancora una volta le discriminazioni nei confronti delle donne. Ma perché la sinistra, che considera lecito qualunque tipo di satira nei confronti della destra, anche quando si sfiorano le offese personali, non è mai in grado di ridere di se stessa? In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, il noto vignettista Stefano Di Segni racconta che la cosa peggiore che può capitare a chi fa della satira è quella di ricevere una telefonata amicale in merito a qualche spiritosata non gradita. Telefonate che, nel 99,9% dei casi, sono fatte da gente di sinistra, scrive Di Segni, che poi commenta. La telefonata amicale della gente di sinistra si struttura in un prologo medio breve in cui il chiamante esordisce con ilare autoironia, raccontando al chiamato quanto si è divertito con la strippa a lui dedicata. «Mi hai fatto davvero ridere!» è il pentaverbo di cui potrei azzeccare il minuto esatto in cui viene espresso, tante le volte che l'ho sentito, di solito al sesto del primo tempo. Perché poi c'è un secondo tempo, ma andiamo con ordine. Dopo il pentaverbo arriva immutabile la rievocazione, da parte del chiamante, del luminoso cammino professionale del chiamato con citazione di tappe salienti. Più o meno all'ottavo del primo tempo arriva così un quadriverbo, il ben noto «ti ho sempre seguito». con cui il chiamante rinforza il concetto della grande stima che ha per il chiamato, che ha sempre letto, apprezzato e a volte ritagliato e appeso sul frigorifero. Poi arriva il secondo tempo. Inizia con il temuto triverbo, quadriverbo se arricchito dell'aggettivo piccola. Solo una precisazione. Un triverbo temuto, temutissimo. Il chiamato sa che è la porta del secondo tempo, della telefonata amicale. Il chiamato è conscio della slavina di precisazioni e distinguo che lo sta per seppellire. Il secondo tempo della telefonata amicale della gente di sinistra a cui brucia il culo per essere stata presa per il suddetto, che di questo si tratta. Amicale un par de palle. È infatti un lungo, tedioso, capzioso e acidino monologo su questo o su quell'aspetto della personalità del chiamante che il chiamato non ha capito. Ha interpretato male, ha travisato, realizzando così una strip o vignetta che poteva venire molto più divertente se, perdonami, lo dico proprio perché ti stimo, non fossi stato un po' superficiale, anche se il livello è sempre altissimo. Dopo 20 minuti di vivisezioni linguistiche e analisi semantiche della strip vignetta per vignetta, con cui il chiamante fa civilmente riflettere il chiamato sulla assoluta gratuità del suo attacco, il chiamato rimpiange il fascistone Trina Ricciuto alla Storace che viene lì, in 2 minuti ti inverte gli zigomi, ma almeno non ti tiene un'ora al telefono per dimostrarti, metafora dopo metonimia, dopo sintagma, che sei una merda, che per questo ti ha chiamato, altro che cazzi. Perché quelli di sinistra, pure se civilmente e con alta qualità sintattica, si incazzano più degli altri. È chiaro perché. Perché noi siamo i buoni, noi siamo i tolleranti, noi siamo i corretti. Noi abbiamo a cuore le minoranze. Noi non siamo fascisti, razzisti, egoisti. Noi non siamo volgari. Noi non siamo Berlusconi. Pertanto non possiamo essere satireggiati. Anzi, sì, ci mancherebbe. Siamo democratici e la satira deve essere libera. Però non oltre i limiti di quello che a noi sembra corretto. Siediti e sta a sentire, che te li spieghiamo per una tua crescita. Ho fatto strip sul vulvomaniaco di Arcore e su Papa Ratzinger, satiricamente mai troppo rimpianti, che non farei vedere ai bambini. Ma nessuno si è mai fatto sentire. Le uniche telefonate amicali le ho ricevute da registi, presentatori, deputati, scrittori inevitabilmente belli, buoni, civili e di sinistra. Loro. L'ego meno. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Stefano Di Segni, Rossi e Permalosi. La sinistra ride solo degli altri. Dal Fatto Quotidiano dell'11 marzo. Un altro scrittore si aggiunge al gruppo di intellettuali che si schierano con le fasce più violente del movimento Notav. Si tratta di Stefano Benni che, rivolgendosi a un giovane Notav in carcere con l'accusa di terrorismo, gli offre tutta la sua solidarietà. Ma, come scrive Pierluigi Battista, quello che colpisce è che nessuno di questi intellettuali si sia mai degnato di spendere una sola parola sui metodi di sopraffazione e violenza utilizzati dalle frange più estreme della galassia Notav. Inseguire i violenti, blandirli, assecondarli bonariamente, usare con loro tutti gli espedienti della retorica giustificazionista. Cosa non si fa per provare di nuovo, dopo tanti anni di inverno dello spirito, il brivido della trasgressione? Stefano Benni si aggiunge alla schiera dei maestri del pensiero che abbracciano la violenza dei gruppi più estremi della galassia Notav. L'aveva fatto Gianni Vattimo, lo aveva fatto ripetutamente Harry De Luca. Qualche giorno fa Benni ha scritto a un giovane in galera con l'accusa di essere un terrorista. Ha usato parole affettuose per lui e di condivisione senza riserve dei metodi adottati, brutalmente violenti, per bloccare i cantieri della TAV. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee e nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. Addirittura l'anima. Ciò che colpisce è che, sulla scia di una lunga tradizione di interventismo degli intellettuali del tutto ignaro dei fatti, superficiale e puramente emotivo, non una parola venga spesa sulle forme di lotta adottate non dal movimento Notav nel suo complesso, ma da sue componenti che fanno della sopraffazione il metodo e della violenza l'unico mezzo. Fioccano le minacce di morte per giornalisti che si permettono di non sposare in toto le tesi della frangia violenta dei Notav. Vengono minacciati gli operai, i fornitori, i trasportatori. Forme di distruzione di impianti e mezzi sono all'ordine del giorno. Parlamentari piemontesi favorevoli alla TAV sono nel mirino dei violenti. Si stilano le liste di proscrizione per chi lavora nei pressi del cantiere. I magistrati perseguono reati specifici, ma vengono trattati, come nelle stagioni più buie del terrorismo anni 70, come agenti della giustizia di classe da punire. Tutto questo sarebbe l'anima e la speranza dell'Italia, secondo Benny. Per ricevere un applauso bisogna acconciarsi all'omertà mafiosa per nascondere i fatti, le violenze concrete, le intimidazioni ripetute. Cosa non si fa per un brivido di trasgressione? Ma non è trasgressione, è solo banalità, la banalità del conformismo. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Pierluigi Battista, Benny e la banalità del conformismo, dal Corriere della Sera del 12 marzo. Esce in Italia il secondo volume di Epidemia Zombie, una saga iniziata nel 2006 dallo scrittore americano Zachary Allan Recht e completata, dopo la sua improvvisa scomparsa, da Tom Brennan. La storia inizia in Africa, dove si è diffuso il virus patogeno Morningstar, che oltre ad uccidere chiunque, riporta in vita le vittime trasformandole in cannibali. Un tentativo di contenere il virus tramite una grossa operazione militare fallisce e l'epidemia locale si trasforma presto in una pandemia che non risparmia nessun angolo del mondo. Mentre tra i sopravvissuti si formano gruppi armati che cercano di assoggettare il resto dell'umanità, i ricercatori Francis Sherman e Anna D'Emilio tentano di trovare una cura. Una sera, mentre rilegge il resoconto dell'ultimo esperimento condotto sui topi, che aveva dimostrato che il morbo sviluppava nelle vittime una sorta di istinto predatorio, Anna avverte il forte peso della propria responsabilità. Era schiacciante e soffocante come una coperta inzuppata di cherosene freddo. Miliardi di persone avevano perso la vita nell'arco di pochi mesi e lei, una delle ricercatrici responsabili del problema, non era riuscita a risolvere un accidente. D'altra parte, pensò tra sé, ho cercato di metterli in guardia, più e più volte. La morsa allo stomaco si allentò all'istante e Anna si sentì di nuovo in grado di respirare. Non doveva addossarsi la colpa dell'epidemia. Non era certo dipesa da lei e i governi che aveva tentato di avvisare si erano profusi in ogni sforzo possibile quando avevano iniziato a prendere la questione con la dovuta serietà. Semplicemente, la natura funzionava così e una specie insignificante come il genere umano non poteva fare nulla per impedirlo, a meno che non riesca a trovare un vaccino. Ecco la chiave di volta, pensò Anna, il grande se. Dal punto di vista epidemiologico, riteneva che all'umanità restassero due opzioni. La prima, i superstiti potevano rintanarsi in un luogo sicuro, sigillare le porte e aspettare che la pandemia portasse a termine il suo ciclo. Come ogni altra ondata di infezioni, anche quella si sarebbe esaurita con il tempo. Restava un unico inconveniente. Quando l'ultimo portatore fosse morto per sempre, stroncato dalla violenza o dalla decomposizione, il mondo intero sarebbe comunque rimasto cosparso di materiali infettivi. La seconda opzione riguardava esclusivamente lei e il suo sogno di creare un vaccino. Avvertì la pressione di quella fatica erculea che gravava su di lei quanto e più del senso di colpa per non aver arrestato la pandemia. Se fosse riuscita nel suo intento, avrebbe reso l'intera umanità immune al Morningstar. Nessuno sarebbe più caduto preda del contagio. I sopravvissuti avrebbero dovuto occuparsi solo delle minacce fisiche, degli assalti di mostri che sbranavano, dilaniavano e sventravano le loro vittime. Non sembrava la più rosea delle prospettive, certo, ma era sempre meglio di dover combattere anche l'infezione. A intensificare il tormento di Anna era soprattutto la consapevolezza di non aver mai tentato di trovare un vaccino. Le ricerche di una cura si legavano esclusivamente alla cooperazione Deucalion e alla sua pletora di esperimenti. Di certo non avevano dato alcun esito, perché il mondo intero giaceva in balia dell'infezione, ma forse i ricercatori erano arrivati a compiere progressi significativi. L'ipotesi più plausibile era quella di creare un vaccino sfruttando organismi microbici ancora in vita. L'idea comportava rischi enormi, ma garantiva maggiori garanzie di successo. In quel caso, tuttavia, Il problema risiedeva proprio nel sistema immunitario. Non c'era bisogno di condurre alcuna analisi in laboratorio. Miliardi di casi in tutto il globo avevano già dimostrato che il corpo umano non riusciva a contrastare il Morningstar e dunque non poteva rendersi immune. Doveva trovare un modo per rinforzare le comuni risposte fisiologiche o, in alternativa, individuare un soggetto che risultasse naturalmente immune al morbo e usare il suo sangue per coltivare in vitro gli anticorpi che le servivano. Era soprattutto la prima via che contava di perseguire una volta giunta a Omaha, perché non aveva notizie di nessun infetto che fosse sopravvissuto alla malattia. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Zachary Allan Recht, Epidemia Zombie, Tuono e Cenere. Multiplayer Edizioni, 368 pagine, 14,90 euro.